Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Parte Megara su Samuel e Megara è solo davanti ad Andanovic, lo batte Megara, è 2-2 col pareggio del Livorno, incredibile errore di Guarin, fischia Calvarese, finisce la partita dopo 4 minuti di recupero, l'Inter si fa rimontare 2 gol di vantaggio dal Livorno. Franco Piantrini, autore di questo programma, Fabio Cantadori, il capitano in regia, are you kidding me? Guarin, are you kidding me? Lo scrivono oggi, mi stai prendendo in giro, lo scrivono oggi tutti i tifosi dell'Inter imbestialiti sui social network. Non è però un pesce d'aprile, è tutto vero. Ciao Pierluigi Pardo. È verità, che passa? Tutto bien? Tutto bien? Sembrava uno scherzo, onestamente, quello di ieri sera di Guarin. Oggi tutti imbestialiti con Guarin. Hai letto i social network? Vedi quanto è limpido il calcio. Quanto tempo fa ci furono manifestazioni in piazza? Ma guarda, ma non me ne parlare. La prima cosa che ho pensato, leggendo Guarin non è degno della maglia dell'Inter. Alcuni lo invitano ad andare a fare qualche settimana di vacanza in Colombia, vabbè. Altri ancora si chiedono ironicamente se Guarin farà un altro assist sabato sera contro il Bologna, eccetera, eccetera. Si incatenavano ai pali pur di non far andare alla Juventus, o mi sbaglio? Era lui, no? Sì, era lui. Beh, lì comunque c'era sicuramente un elemento di politico, diciamo, cioè non era tanto la partenza di Guarin, era la squadra protagonista dell'eventuale scambio che non piaceva ai tifosi dell'Inter, quindi doppio errore. Ma poi Guarin è sempre stato mal sopportato, quindi e Vucinic, cioè, che è stato messo ai margini di rotazioni da Conte, perché Conte è integralista anche lui, è testone, cioè domenica gli serviva come l'acqua una seconda punta dopo che non c'era Tevez da far giocare con la prima punta, che poteva essere Osvaldo Llorente, e invece no, tutti e due dentro gli altri a guardare come al solito. Senti, ma la sai, no, la notizia? Cosa? Da lunedì 7 aprile 2 ore di tutti convocati ogni giorno. Sì, vabbè. Davvero? Pure il sabato, ma non è un pesce d'aprile. No, il sabato no, ma da lunedì a venerdì tutti i giorni 14-16. Non ci credi? Ma lo so, è vero, non è un pesce d'aprile, posso confermarlo, però ho finto bene. Sei stato bravo. Che cosa, come vogliamo interpretare questo paraculo, che si dice in questi casi? Ringraziamo il mister, Sì, ringraziamo la società della fiducia che ci ha concesso, sì. Il direttore. Sì, Balotelli cosa direbbe? Il mister Barisoni, che ieri sera si sarà entusiasmato vedendo Toni. Poi faccio sentire Mihajlovic, che dopo le dichiarazioni di ieri a Tichità, che è stato squalificato 2 giornate, anche questo non è un pesce d'aprile, ma sai, il problema è che adesso nessuno ci prende sul serio, no? Ogni cosa che diciamo, ma state scherzando, you are joking, no, squalificato per 2 turni Mihajlovic per le dichiarazioni di ieri a Tichità, che tra le altre è questa. Ieri sera Conte e Benitez hanno continuato a parlare di fatturati, sembravano veramente, non so, Squinzi e Marchionne, o fate voi, insomma, i nomi, o Montezemolo, che parlavano di finanza. Fa un po' effetto o no? Ma io questi soldi non li spenderei nel calcio, sicuro. Squalificato 2 turni, poi ne abbiamo anche delle altre, di dichiarazioni di Mihajlovic. No, comunque squalificato 2 turni seriamente Mihajlovic per le proteste di domenica. Ecco, non per Tichitaka, dai. Non per Tichitaka. Ha squalificato per 3 giornate anche Fre, difensore del Chievo, con la prova TV, perché ha preso a calcioni nel sedere Mario Balotelli. D'altra parte lo sanno, lo provocano e normalmente lui ci casca. Posso dire che ieri sera veramente io ho visto 3 personaggi nella loro diversità, Tiki-Taka, uno più bello dell'altro. Sì. Mihajlovic è ormai un guru, è una divinità assoluta, Mihajlovic, galleria dei miei preferiti, il vero erede di Mourinho in Italia. Di cosa posso, uno che ha vissuto 2 guerre, di che cosa può avere paura? Questa frase mi è rimasta impressa. La vuoi sentire? Risentiamola. Sentiamola, dai. detto, 28 munizioni a 25. Te ne frega qualcosa di quel record lì? Ma uno che ha fatto due guerre, come fa ad aver paura di calcio? Va bene, la frase dell'anno, grazie. Sì, Pirlo ti batte, aspetta, insomma, ti succhi al record delle punizioni, ma che ha fatto due guerre, ma che gliene frega. Però ti posso dire, io insomma Mihajlovic lo conosco da un po' di anni e ho la sensazione che sia arrivato a un punto di consapevolezza e di serenità che forse in passato non sempre ha avuto, cioè che sia passato in una soglia ormai di maturità anche da allenatore diversa rispetto al passato. Poi ovviamente magari siamo influenzati dai risultati di quest'anno che sono eccezionali, però insomma mi sembra che, non lo so, io ieri ho colto veramente la serenità di un uomo diverso anche rispetto a 2-3 anni fa, insomma all'inizio della sua carriera di allenatore, all'esperienza di Firenze, tanto per fare un nome. Sì. Ma a parte il fatto che io dichiaro pubblicamente che lo voglio convocare, Sinisa Mihajlovic, avviso ai naviganti e all'ufficio stampa della Sampdoria, vogliamo al più presto Sinisa Mihajlovic a tutti i convocati, magari anche per insomma bagnare e brindare all'allungamento del programma a 2 ore da lunedì 7, lo ripeto. 800 24 00 24, non cambia lo schema, traffico. Tutti convocati. Due ore di sole, due ore di battaglie, due ore senza amore. Due ore, sì, da lunedì due ore con me parlo, chi si salvi chi può. Cassano e Paletta non convocati per la sfida con la Roma. Aia, vedo ora questa notizia dell'ultimo istante. Cassano e Paletta non convocati per la sfida con la Roma. Beh, mezzo Parma no, però i due giocatori più importanti, rientra Mauri, però insomma sì, vabbè, okay, Mauri, dai. Cioè Cassano e Paletta sono i due giocatori più importanti del Parma. Tra l'altro Garcia ha detto comunque Cassano ha preso la botta alla caviglia domenica, sì, quindi era un po' in difficoltà. Ma sai, però in una partita così importante con il Parma, che io credo di queste sia l'unica tra Atalanta, Torino, ma con tutto il rispetto della stagione che hanno fatto Verona, cioè, però una delle poche che vuole andare in Europa League. Con il cavolo invece che l'Inter, se continua così, in Europa League ci va. Allora, Luca Calamai, inviato della Gazzetta dello Sport, ieri sera a Livorno. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Oh Calamai, quando è che va insieme a Volta Mantomana, Grande, grande. Ma Pardo parlava così perché essendo lui di fede giallorossa, io, ha cercato di spacciarci il ritorno di Amauri degno, sì, delle assenze di Paletta e Cassano, capito? Veramente la roba tra me. Io concedo a Pardo la difesa. Difenditi. No, ti devi difendere. Aspetto a Volta Mantovana. No, io invece, guarda, siamo andati a Firenze, si è presentato con la maglietta da Fiorentina. Siamo andati a Napoli, c'aveva la giacca bianca e azzurra. Lui è Zelig. Vi vorrei far leggere, perché è abbastanza divertente, i commenti alla fine di qualsiasi puntata, di qualsiasi partita. Un giorno su Twitter io penso che farò una convention e sì, li metterò insieme questi qui, che fra l'altro sono persone carinissime, no? Però quello che ti dice, se sente che sei della Juve, sì, sei, sì, dell'Inter, sì, sei della Roma, sei del Milan, sei della Lazio, non parli mai di questo, eccetera, e poi prima o poi organizzerò una grande faciolata, una grande manifestazione. Ma tu sai anche quelli che arrivano qui, no? Cucciani. Tu sai anche quelli che arrivano qui alla radio, no? E tieni di questo e tieni di quello, e sei un cretino di qua, un pirla di là. Vabbè, comunque, a me però fanno impazzire. Guarin. C'è chi mi scrive fenomeni, come dire, bravi. Vucinic, 0 gol da gennaio. Stiamo cercando i minuti giocati da Vucinic da gennaio ad ora, sono 59. Minuti giocati 59, fenomeno. Vucinic, 0 gol da gennaio, in 59 minuti. Ah, vabbè, dai, ognuno guarda le cose come ne ha voglia. Guarin, dunque, il grande colpevole. Luca Calamai, ma quando sentiremo Mazzarri dire: a volte non è colpa degli arbitri, perché non lo è, non è colpa dei giocatori, li ho allenati male io, questa partita è colpa mia. No, sempre colpa di qualcun altro, ci sono gli scrutini e gli esami di riparazione per l'anno venturo, eccetera, eccetera. Ma guarda, sarebbe Mercerara, lo beatificano immediatamente. Io credo, guarda, che l'Inter sia un qualcosa di inspiegabile. E allora, io lo conosco bene Mazzarri. Allora, sì. Mazzarri onestamente è tutto meno una persona simpatica, però è un grandissimo allenatore, soprattutto è un grandissimo insegnante di calcio. E ti confesso, parlavo anche con altri colleghi, quando quest'estate c'era la certezza che l'Inter non facesse le coppe, quindi Mazzarri avrebbe avuto di conseguenza la possibilità di lavorare 7 giorni per preparare le partite, eravamo, chi conosce Mazzarri, tutti convinti che l'Inter avrebbe fatto un grande campionato, perché c'era questo valore aggiunto che poi ha toccato la Fiorentina con Montella l'anno scorso, sì. Tutti quelli, insomma, i grandi allenatori che non fanno le coppe. Invece l'Inter è una confusione totale, non c'è niente di Mazzarri, non si capisce come vuole giocare, non c'è un leader, non c'è un'idea di gioco, c'è una supponenza che non è figlia di nessuno dei risultati, non può essere figlia di niente di quello che può aver fatto l'Inter in quest'anno, quindi è un qualcosa di molto complicato. E ti dico la verità, io ieri invece l'ho visto in faccia a Mazzarri e mi è sembrato molto perplesso, e ne, credo ne abbia anche dei buoni motivi, perché insomma è inutile nascondere, l'esperienza ci insegna che quando arriva un patron straniero, la voglia di roba straniera spesso prende sopravvento, no? Sì. La voglia. E quindi stai dicendo, che sotto esame lui ha detto adesso usiamo questo finale di stagione, lo stiamo usando per monitorare i giocatori, per vedere chi c'è e chi non c'è, e molti non sembrano non esserci, insomma, da Inter quantomeno. Più di quelli che secondo me si poteva realisticamente pensare, sì. Ma soprattutto non si sa come vuol giocare questa squadra. Ma in questo Luca, e giro a considerazione a Pardo, in questo qualche colpa Mazzarri ce l'avrà anche. Non è che sotto esame ci finisce anche lui? Certo. Beh, c'è questa possibilità, insomma, è dall'inizio che si dice, anche quando le cose andavano un pochino meglio, la stagione non aveva ancora preso esattamente un corso così preciso, che Toir non fosse, diciamo, il primo fan di Mazzarri. Si è fatto il nome di De Boer, non si sa perché, ma insomma è un nome che si è fatto spesso, quindi diciamo che vero o non vero, alla fine in qualche modo è diventato un argomento. A me sembra onestamente, io non sono così catastrofista, secondo me l'Inter sta facendo la stagione che può fare per la qualità dei giocatori che ha, al netto di qualche situazione arbitrale che certamente non l'ha avvantaggiata, l'ho detto mille volte, non credo nei complotti, però secondo me è abbastanza oggettivo che qualche punto all'Inter quest'anno manchi, sì. Non roba clamorosa, non sarebbe cambiata la stagione, però magari 5-6 punti in più li poteva avere e la classifica poteva avere un po' un aspetto diverso. Detto questo, quello che mi sembra che stia mancando in questa fase è l'evoluzione. Cioè, l'Inter di Mazzarri aveva cominciato benissimo nelle prime giornate con il carattere del suo allenatore, oggi sono passati 6 mesi da quell'inizio di stagione. Cammina come i gamberi. Sì, o comunque, insomma, non c'è stata la crescita che Mazzarri poteva aspettarsi. Mi sembra una squadra che continua a fare grande fatica nel giocare contro le squadre piccole, che sì. Si chiudono, quindi a trovare. Ma non velocità. Ho capito, sei d'accordo o no con Calamai quando dice che quest'Inter non ha né capo né coda? Beh, non ha capo né coda, non sono completamente d'accordo. Io ho visto, secondo me l'Inter non ha avuto capo né coda a gennaio, a dicembre-gennaio, quella è stata la fase più acuta della crisi. Poi si è ripresa, ha fatto 6 risultati utili consecutivi, però giocando un meglio punto in le partite in cui aveva spazi. E poi quella di ieri, onestamente, ieri secondo me Mazzarri ha sbagliato una sostituzione e poi comunque ha pagato per una sciagura di un suo giocatore. Io non sono così drastico, secondo me Mazzarri ha iniziato un percorso, tanto per capirci, visto che a Benitez giustamente viene riconosciuto il fatto che è al primo anno, io credo che la stessa cosa la si debba fare anche per Mazzarri, cioè se il primo anno è un anno anche di collaudo, di impostazione del lavoro, ci sono quelli che al primo anno vincono come sì, tutte. Però il Napoli ha chiarissimo dove vuole andare a finire e vuole andare a parare, sì. Ha scelto la grande qualità e la velocità degli attaccanti e ha due attaccanti come Mertens e Calleon che sono veramente tanta roba, e li ha voluti Benitez, e alzi la mano chi pensava che Calleon e soprattutto Mertens fossero questi, e quindi bravo Benitez. Ha scelto un certo modulo di centrocampo che tra l'altro io condivido anche parzialmente, perché mi piace più, avendo Jorginho secondo me sarebbe meglio il centrocampo a 3, ma lavora su questo progetto e sta cercando, ora deve completare la squadra con uno o due grandi difensori. Quindi il Napoli ha un percorso che è chiarissimo, poi a secondo degli interpreti può alzare o meno il suo livello. Discorso che vale anche per Roma e Fiorentina, no? Esatto, l'Inter parte con l'idea Napoli, perché parte con i 3 difensori, quindi come il Napoli, vecchio Napoli, parte con i due esterni che attaccano, non a caso si fa un investimento su D'Ambrosio che per il momento non sta pagando e non so se questo ragazzo sta soffrendo anche l'impatto con una maglia pesante come l'Inter. Due centrocampisti abbastanza tattici come il vecchio Napoli, però poi davanti gioca Alvarez che non è niente, non è Lavezzi, non è Amsic, non è niente di tutto quello che era il Napoli di ieri e nemmeno il Napoli di oggi. Ha un centravanti che è molto centravanti, e quindi un centravanti che non si presta né ai movimenti di Cavani né a quelli di Higuaín, e ha un solo grande giocatore che è Palacio, che dà la sensazione veramente di essere un extraterrestre. Dopodiché io vi invito a guardare il primo gol che ha preso l'Inter, perché tutti parlano dell'errore di Higuaín, era lì da solo. Andate quello è un errore collettivo, no, sono d'accordo. Dentro però l'area di rigore, cioè ha tirato un rigore Paulinho, calcio d'angolo. No, però il paragone con Napoli secondo me non regge, perché Napoli è più avanti, era più avanti già l'anno scorso dal punto di vista, cioè il punto di partenza. Io sono d'accordo che Napoli sia più avanti dell'Inter, lo dice la classifica e lo dice il progetto, ma partiva più avanti dell'Inter, cioè l'Inter viene da stramaccioni. Io vi ricordo dove era l'Inter un anno fa, insomma, adesso qui c'è Stra Juve che mi dice come faccio a difendere l'Inter, sembro un democristiano, forse sono anche un democristiano, io penso però che l'Inter anche questo non sono particolarmente democristiano, comunque penso che l'Inter, voglio dire, sia questa, cioè se io guardo la classifica dell'Inter non sì, ho però Pier, se questa è poca roba, a me sembra che comunque Mazzarri non abbia fin qui costruito un granché, anche la, insomma, se si tratta soltanto di eliminare dei giocatori, cioè di capire chi non è da Inter, insomma, non mi sembra tantissima prospettiva per l'anno prossimo. Lascio la chiosa a Luca Calamari, dato noi ci sentiamo dopo la borsa. Luca, dimmi. No, io la penso come te, cioè io non vedo costruzione. Cioè, chiudete gli occhi, riprendete la prima Inter di inizio stagione e vedete quella di oggi. A gennaio sono stati spesi dei soldi, soldi importanti, certo, non caramelle. Certo. E oggi siamo ad aprile, cioè tre mesi dopo il mercato, due mesi dopo il mercato di gennaio, non vedi progetti, non vedi una crescita, non vedi uno sviluppo, non vedi un punto d'arrivo. E sì, poi te dicevi, stai attento al Parma, ve ne dico un'altra, state attenti al Milan in prosecuzione Europa League, perché io ho visto il Milan le ultime partite. Milan può anche infilare una serie, le può anche vincere tante da qui alla fine. Sì, anche perché le partite non verissime da qui alla fine saranno N, poi dipenderà dal calendario naturalmente. Grazie Luca. Ciao, arrivederci. Ciao Luca Calamai. Pier, ciao, stai Gala. Lì. Sì. Stai lì che adesso abbiamo la borsa, poi torniamo. Tutti convocati. Che c'era Pieri Costa Curta che li facevano fare i cose, i miglior tiratori di punizioni, no? Fra Pirlo, Del Piero, Maradona, sì, non lo so chi c'erano, eravamo in cinque, io ero quinto, ultimo, anche se ho fatto più gol di tutti su punizione, però devo anche ringraziare Costa Curta perché in quei 28 punizioni c'erano tanto anche merito suo. Quando giocavamo contro Milan lui era quello che faceva 4-5 falli che mi permetteva di far gol, ecco. Mihajlovic ieri sera di un genio, grazie Billy, mi metti quinto, ma grazie, poi mi butti giù e io tiro punizione e ti faccio gol, grazie Billy, poi mettimi quinto, va bene così. No, io stavo per lanciare l'idea del palinsesto on demand, noi sì, due ore, dalle 14 alle 16, questo è ufficiale, però c'è chi chiede mezz'ora in più di Cruciani, un po' di più di Giannino, meraviglioso, palinsesto on demand. Io vorrei cosa vuoi, te? Cuore denari. Anch'io. Cuore denari. Grande fan di cuore denari. Poi c'è... parlare di colesterolo oggi, parliamo di colesterolo. Di colesterolo, va bene. Franco da Napoli, com'è colesterolo, come sta messo? Direi nella norma. Nella norma, tutto a posto? Ciao gente, ciao. Ciao, dimmi. Io volevo esprimere, intanto sono contento della vittoria del Napoli, da buon tifoso napoletano. Anche se ci sono comunque due macchie, una più grave è quella dell'episodio ignobile proprio delle bottigliette. Delle bottigliette a Pirlo, sì. Sì, quella è una cosa che offende il calcio italiano e tutto veramente. Sì, non possiamo poi essere d'accordo. Poi vedo che contro quella Juventus, forse anche il Sassuolo avrebbe fatto qualche gol. No? Forse anche, non ho sentito. il Sassuolo forse avrebbe messo in difficoltà ugualmente una sì, squadra quindi, che ormai... tu dici quindi che la Juventus era piatta, che il Napoli ha semplicemente, beh, no, secondo me il Napoli ha fatto una grande partita. No, io dico che comunque la il Napoli era stagionale probabilmente. Chiaramente forse non era l'avversario. Ma sai che forse... ieri mi dicevano che il Napoli, una statistica che non conoscevo, non so se Pierluigi la sa, il Napoli quest'anno ha vinto 29 partite contro 31 della Juventus, tutto compreso, cioè 29 vittorie Napoli, beh, 31 Juve, tante in Coppa Italia, ne ha vinte 4 nel girone di Champions League, la Juve ne ha vinta credo solo una, e poi la Coppa Italia, per cui sì, insomma, dai, ci sta. Non mi sorprende più di tanto, conta vincere le partite giuste, però. Beh, questo è sicuro, però anche chi diceva va a Napoli fragile in trasferta, il Napoli ha vinto delle partite in trasferta molto, molto impegnative, ha vinto su campi difficili. Poi è vero che magari si è perso con le piccole, probabilmente il vizio di fondo sta lì. C'è invece un messaggio che è questo, io voglio sentire la tua opinione, parlo su questo. Lorenzo scrive: ma come si fa a pensare di dover atterrare ai Megara, riferito all'episodio di ieri sera con il retropassaggio di Guarin, quella follia, e Samuel che tutti dicono tiralo giù, lo ha detto anche Bruno Longhi, scrive l'ascoltatore, ma non è etica sportiva. Bah, a parte il fatto che secondo me Samuel se riusciva a prenderlo lo tirava giù, che non ce la faceva ad acchiapparlo, punto primo. Punto secondo, se c'è a 9 minuti dalla fine, cioè non è che è gratis il fatto di prendere un rosso deliberato, non è gratis perché prende il cartellino rosso, però insomma, secondo me è nel gioco fermare l'avversario e dire ok, espulsione per gol evitato a 9 minuti dalla fine. Sì, beh, sì, è un ragionamento che ci stava, insomma, un po' a tavolino così, lì sai, c'è anche l'adrenalina e l'istintività del momento. Cioè secondo te era da fermare anche alle brutte, ovviamente. Fuori area, certo. È una cosa che ci può stare, perché insomma, ma non mancava molto e quindi probabilmente anche col uomo in meno l'Inter avrebbe difeso il risultato dopo aver fronteggiato il calcio di punizione, però insomma, che ti devo dire, quelle sono decisioni che spettano appunto all'istinto del giocatore. L'errore di fondo è stato di Guarin, una sciagura totale, vabbè, insomma, dai. Questo è quello che è successo all'Inter di ieri. Esiste un attenuante per Guarin, poi è condivisibile il discorso di Mazzari quando dice vabbè, un infortunio come portiere che si fa passare la palla sotto le gambe, è stato un errore talmente clamoroso da meritare probabilmente almeno le attenuanti generiche, no? Però non mi sembra un giocatore particolarmente sereno, nonostante abbia rinnovato il contratto, eccetera, eccetera. Sì, sicuramente, però ti dico la verità, io penso che Guarin sia un giocatore importante nell'Inter. Adesso ieri ha fatto questa sciagura, è un giocatore che non mi convince del tutto, nel senso, un giocatore secondo me ha degli strappi eccezionali dal punto di vista del talento, della giocata, ma un giocatore che segna troppo poco per il ruolo dove gioca ed è un giocatore che non ha grande ordine tattico, quindi da questo punto di vista non è l'uomo sul quale costruire il centrocampo, è molto più Hernanes come caratteristica, questo tipo di giocatore. Però insomma, secondo me adesso, se l'Inter, ecco, la cosa peggiore che può fare l'Inter dopo questa sciagurata esperienza di ieri sera è cominciare adesso a lasciare Guarini in pasto alla piazza, nel senso che ha fatto un errore grave. Bravissimo, ma è una bravissimo. Delle poche, aggiungo, poche certezze o comunque poche scintille positive che l'Inter ha a disposizione nel costruire il futuro. Poi soprattutto è un giocatore che ha appena rinnovato il contratto, quindi vuol ma dire appunto, che, ma no, ma, scusami, qua, almeno dal punto di vista economico è un valore da tutelare per l'Inter, no? Poi cedilo, fai quello che vuoi, però tu hai ragione da vendere, cioè in questo momento devono dire oh, bravi tutti, la squadra ha giocato male le ultime 3 partite, colpa di tutti, anche dell'allenatore, perché è colpa anche dell'allenatore nonostante si chiami fuori quasi ogni volta, però Guarin va difeso proprio per questa ragione. Giovanni Milano, poi Paolo provincia di Treviso, poi salutiamo Pierluigi Pardo. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno Cenda, ciao, buongiorno. Innanzitutto grazie per avermi convocato per la trasmissione, far parte dei 18 fa sempre piacere. Dimmela. Sono in preparazione anche delle straordinarie magliette di tutti i comuni. Sì, questa la racconto un'altra volta. Io sono pronto ad acquistarle. Non si acquistano, ma poi vi spiego tutto. Andiamo in beneficenza. Allora, due cose velocemente. Una, devo fare i complimenti a Pierluigi perché comunque sentire le sue telecronache insieme a Caressa, perché bisogna dare a Cerre, siete il top, il sì. top. Grazie, quindi grazie. Sentite questa trasmissione, mi riempie il cuore. Io non lo sopporto più quando i miei figli giocano con i giochini, sento Pardo anche quando sono a casa, quindi sinceramente non mi unisco perché non lo sopporto più, ma comunque lei ha ragione, dimmi. Sì, comunque. Nulla, no, due cose, vabbè, la prima è riferita al Rizzoli di domenica. Io sì. ho fatto 20 anni d'arbitro, quindi poi ho smesso qualche anno fa, insomma, adesso quindi? Mi occupo sempre di calcio, faccio il direttore sportivo una società di calcio, beh. Non do tutte le colpe, cioè, anzi do poche colpe a Rizzoli, perché comunque lui il rigore non l'ha chiamato, gliel'ha chiamato il sesto uomo, oramai sono 25 persone che vanno ogni domenica in campo. Gliel'ha chiamato l'uomo di porta, l'arbitro di porta. Sì. Però in realtà, perché lui era benissimo, era vicino all'azione. No, ma sono d'accordo, ma questo credo sia ormai cronaca, no? Sia ormai cronaca, l'arbitro di porta ha chiamato, lui non era convinto. No, ma cioè, non è, ma non è tanto Rizzoli, però Giovanni, o del giudice di linea, di fondo campo, l'arbitro di porta, chiamatelo come volete, o ti fidi o non ti fidi. Tu non l'hai visto, quello dice che c'è, altrimenti a che serve? Poi non è tanto quello, non è tanto l'errore quanto la pezza che è stata messa con quei 4 minuti e rotti secondi che sono stati sinceramente un obbrobrio, no, non è tanto quello. Paolo Provincia di Treviso, poi rispondiamo cumulativamente. Paolo. Sì, sì, io volevo dire la soluzione dei problemi all'Inter che nessuno ha il coraggio di dire. Qual è? Mazzarri, sì. Questo qua non ha la minima idea, l'Inter secondo voi ha un gioco? Non c'è un gioco. Sì, lo stavo dicendo prima. Più evidente che il Mourinho di sera, vabbè, la combinata grossa. Però Ronaldo che è dietro di lui sale, si sovrappone all'interno, invece di dargli la possibilità dello scarico. Ti vuol dire che c'è un disordine tattico che non ha uguali. Mourinho è un gran campione, però bisogna che sia disciplinato. Sì, gran campione, no, è un giocatore che ha delle qualità. Campione, qualità per diventare. Sì, ma poi soprattutto nel, come diceva Pierluigi, in questa Inter, insomma, è uno di quelli da proteggere. Sì, c'è un ordine tattico, sì. Sono buttati lì. D'altra parte a Napoli, sì. Aveva Cavani e Amsi che erano i due contropiedisti. No, a Napoli aveva altri giocatori. Cosa ne pensi, Pierluigi, di queste due considerazioni? Io non butterei a Mazzarri. Non butterei a Mazzarri. Se non per una. So che oggi è abbastanza impopolare dirlo, so che anche i tifosi all'Inter sono arrabbiatissimi, però insomma, secondo me ha riportato un ordine. Poi sicuramente questa stagione per lui sta diventando un'occasione persa. Secondo me il problema di fondo della stagione dell'Inter è il mercato. Il mercato estivo che non è stato assolutamente all'altezza. Icardi ha avuto tanti problemi, per lui sono stati spesi parecchi soldi. Insomma, se paragoniamo il mercato dell'Inter con quello del Napoli, con quello della Roma, non c'è partita, no? Non sono proprio arrivati gli acquisti, i giocatori che servivano. Quindi questo è fuori discussione. È stata una squadra veramente poco mazzarriana anche negli uomini, quella che ha avuto a disposizione. Questo è abbastanza sorprendente. Adesso non lo so, la delusione c'è, ma non credo però che sia una situazione completamente disperata. Servono soldi, servono idee. Sono d'accordo con voi che si vede poco, sono d'accordo con Calamai che si vede poco, ma non. Ripeto, un anno fa l'Inter aveva stramaccioni, era in caduta libera e sinceramente non. Ma sai piuttosto cos'è? Che mi sembra che adesso sia, cioè, l'idea sia quella di passare con la ruspa e azzerare tutto, no? Cioè, non è stato messo un mattone, questo forse è un lavoro che andava fatto prima. Puoi ripartire da Andanovic, puoi ripartire da Hernanes, secondo me anche da Guarini in mezzo, da Jonathan di quest'anno, da Palacio, ci sono 4-5 giocatori dai quali ripartire, il resto ovviamente sono i giovani, i cardi, vediamo se esplode o non esplode, insomma, ma ripeto, non è che io sia entusiasta dell'Inter di quest'anno, dico che quella è, cioè non mi sembra che con questo materiale umano e le premesse dell'anno scorso ci si potesse aspettare molto di più, ecco, solo questo. Ciao Pier, sentiamo domani. Ciao, grazie Pardo. Dunque, traffico, sì, poi torniamo. Convocati. Penso che o meglio è andato in generale tutto il weekend con una macchina un po' più competitiva, penso in tutti i settori. Abbiamo fatto dei miglioramenti alla macchina, piccoli, ma tutti penso che hanno funzionato come l'atteso. Manca ancora, sicuro noi miglioriamo, anche gli altri migliorano ogni gara, quindi dobbiamo fare un step più grosso perché siamo un po' indietro. Queste due gare sicuro la prestazione non è ancora al top, dobbiamo migliorare per la prossima settimana a Bahrain. Siamo terzi nel mondiale a un punto di Hamilton e siamo lì nel gruppo dei top, quindi questa è la cosa più positiva. Questo ovviamente era, non era Mazzari ma Alonso, poi torniamo su temi calcistici, ma intanto a me scappava di fare due chiacchiere con Leo Turrini, anche se so che girerò il coltello nelle sue piaghe. Ciao Leo. Ciao carissimo, lo sono a tua disposizione. So che ti farò del male, ma a me sembra che la Ferrari sia esattamente nella situazione degli ultimi 5 anni, cioè c'è qualcuno che va più forte, che è talmente distante da, insomma, da togliere quasi le speranze, e io vedo Alonso che, come al solito, spreme tutto quello che riesce, tutto quello che può da una macchina, anche se quella che sogna adesso non è più la Red Bull, ma per il suo compleanno vorrebbe una Mercedes. Dobbiamo cercare sempre, come diceva mia suocera ai tempi della fotografia non digitale, sì, di sviluppare il negativo. Di sviluppare, quindi, il negativo. Alla Ferrari quantomeno non c'è ancora Guarini che fa questo passaggio indietro contro il Livore, capito? Cerchiamo di prenderla così. Il compenso c'è il biondino che domenica non riusciva a superare la Lotus. No, io su questo vi devo contraddire. Voi giustamente guardate il risultato, tu, Bardo, siete bravissimi perché commentate quello che vedete, ma dovete non dirmi che mi stai parlando di onorevoli sconfitte, non no, cominciare anche tu, suggeriva Umberto Eco, dovete grattare sotto la superficie, andare a cercare il palinsesto sotto. Sì. Allora Raikkonen ha avuto due gare nelle quali ne sono capitate di cotte e di crude, ma prima di questi inconvenienti era, e non accadeva da anni, alla ruota e nella scia di Alonso, dicono non accadeva da anni in Ferrari. Dopodiché ha avuto delle vicende assolutamente disgraziate. Però io volevo suggerirti un tema, perché tu sei il fuoriclasse della radio. Finalmente abbiamo capito chi ha ispirato il film Oscar 12 anni schiavo. Felipe Massa! Ma dovete dirlo, tutti convocati. Bravo. Lo dico, Massa ha fatto 12 quasi anni da schiavo in Ferrari, no? Sì. Finalmente se ne va, lo mandano via, viene liberato, no? Lo dice lui, a Melbourne ha detto sono di nuovo un uomo libero, no? Passano 8 giorni e in Malesia gli arriva il messaggio radio Bottas is faster than you, la stessa cosa che gli dissero a beneficio di Alonso 4 anni prima. Questo non è per distogliere l'attenzione dal fatto no, ma questo la Ferrari, va pianissimo, la Ferrari è una tartaruga. Io sono molto addolorato, molto triste, questo regolamento tecnico, la Power Unit, il turbo, l'ibrido, era annunciato da 2 anni. Appunto, lo sapevano tutti, la Mercedes ha lavorato, eccetera, e purtroppo le cose non stanno funzionando. No, ma dimmi dell'uomo libero, dell'affrancato, che invece si è ribellato e ha detto stavolta no. Spartaco, qui citiamo un altro colosso di Hollywood all'epoca con Kirk Douglas. Finalmente Massa si è ribellato, ha detto ma come, c'è stata l'emancipazione sanzionata da Abramo Lincoln nel 1863 e di nuovo mi venite a chiedere di dare strada, poi voglio dire una roba oltraggiosa, una cosa caro Geta, ma infatti, ma noi siamo con i ribelli, siamo con gli irregolari, allora, finalmente Geta, Felipino. Tu sei per la radio come Zuckerberg per i social network, no? E Pardo è il tuo associato lì di Google, lì come si chiama lì. Ma ti sembra plausibile che a uno come Massa, che è in Formula 1 da non so, oltre 10 anni, che aveva vinto un mondiale e l'ho perso una curva dopo il traguardo, gli ordinino per un sesto posto di dare strada a un finlandese che, mi permetto di dire, ancora fosse Raikkonen, il certo, santo venditore, certo. No, dico Bottas, ma no, poi questa è una roba come il passaggio indietro di Guarina Livorno. Bravo, bravissimo, è come il passaggio indietro di Guarina Livorno, solo che in questo caso Samuel l'ha steso e insomma è stato espulso, non so se sia stato espulso dalla Williams, Massa non risulta, però almeno ha fatto quello che doveva. Ma poi quell'altro, vuol dire, vuoi passare, dimostra di essere davvero più veloce, vai comunque ad avvicinarti a Massa, ti metti lì sulla coda, no, ma poi non solo caro, tieni presente, al limite fai battaglia, no? No, ma che se fosse stata una cosa che Button era primo, no? E quindi se Bottas salta Massa, la Williams può pensare di giocarsi la vittoria. In ballo c'era un sesto posto. questo vedi adesso al netto di tutte le cose cinematografiche, 12 anni schiavo, Spartaco, Guarini, Livorno, tu, Zuckerberg, Pardo, Google, ti dà l'idea di quello che purtroppo è la Formula 1 oggi. Questo è un mondo che è governato veramente da presunti tecnocrati, no? Che stanno lì attaccati ai computer, telemetrie eccetera, e dicono no, ma qui noi possiamo anche umiliare un pilota con una lunghissima carriera alle spalle chiedendogli di rinunciare a beneficio di un novellino a un sesto posto. Cioè è una carenza assoluta dei valori, insomma, hai capito? No, questo tu hai ragione come sempre. A proposito, c'è Dario Dal Camion che scrive: facci i miei complimenti al signor Turrini, il suo libro Obiettivo è meraviglioso, credo si riferisca al tuo ultimo su Senna, e io te li giro. Io ringrazio tanto Dario, ma vorrei dirgli che il merito di Carlo Genti ha ispirato quest'opera. Certo. Me l'ha presentata, devo dire, vabbè, in una maniera sontuosa, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché sai cosa c'è? Che la Ferrari va veramente piano, è una cosa. Ci sono molte analogie tra l'Inter di Mazzarri e la Ferrari di Alonso e Raikkonen. Davvero? Insomma, sai, questa mancanza non solo di competitività. Sai cosa ha scritto Leo? Sai cosa ha scritto Max su Twitter? Sul nostro Twitter ha scritto: Domenicali e Mazzarri. Adesso io però su questo mi dispiace andare controcorrente, ma lo faccio perché di solito sono sempre uno molto banale, molto normale. Ah sì? Io, cioè, da quando? Domenicali per me è come un fratello. Io l'ho conosciuto quando è entrato in Ferrari all'inizio degli anni 90, ha fatto tutta la gavetta, e credetemi, se c'è uno in Italia che non è, chiedo scusa per il termine a Confindustria, vostro editore, un paraculato o un paracadutato, Stefano Domenicali. Ha fatto tutte le tappe, come dicono quelli bravi che hanno studiato, step by step, è una persona per bene, ha una grande passione, è uno che da ragazzo andava in curva a dormire di notte a Imola per vedere Gilles Villeneuve, perché lui è di Imola, no? E poi se uno mi dice ma i risultati della Ferrari sono come quelli dell'Inter di Mazzarri, io rispondo sì, è vero, purtroppo le cose non stanno funzionando, ma tenete presente una cosa sola, voi che avete studiato. Non è che quando c'era Jean Todt era Todt che faceva la macchina, attenzione, sì. E poi la gente guarda la TV e dice ma quello che sta al muretto è come l'allenatore, no? Appunto, il paragone con Mazzarri, è lui che mette Guarin che poi fa questo bel assist. Beh, nell'immaginario, no? Collettivo è così. Ecco, ma non è vero, perché il gestore di un reparto corse ha una responsabilità organizzativa, amministrativa. Quello che si può imputare a Domenicali, e questo io lo accetto, è che le persone che hanno le responsabilità delle aree di sviluppo, dal motore al telaio alla progettazione, indiscutibilmente le scelte lui o le sceglie lui, questo sì, ma guardate che non è che se viene Briatore, no? Ecco, così tanto se ne parla, è anche il giorno del pesce d'aprile, eccetera. Viene Briatore da Ferrari, si tira dietro la Gregoraci, benissimo, sì. Abbiamo un guadagno enorme in termini di glamour, no? Ma questo sicuro. Finiamo su tutte le copertine, sì. I social network qui e là. Poi una volta che mi prendete, che sono più rilassato, vi racconto di quella volta che c'era la Gregoraci sulla griglia di partenza a Monte Carlo, gli anni della Renault. No, delle scene epocali. Noi rilassato non ti vogliamo, ma comunque. Vabbè, ma cioè non è che cambiano le cose dalla sera alla mattina. Il problema è che la Ferrari purtroppo in questa fase storica evidentemente non riesce a massimizzare quelle che sono le sue risorse. Qui sta prendendo una legnata paurosa dalla Mercedes, che è una grande potenza industriale, che ha lavorato molto meglio, in particolare sullo sviluppo del turbo e dei motori ibridi. Certo. Questo sì, questo è molto doloroso, e io sono, devo dire, tristissimo per questo motivo, tristissimo. Leo, io ti adoro, lo dichiaro pubblicamente, tu lo sai, lo sanno tutti, tutto il mondo. Ci sentiamo la prossima volta, tanto allunghiamo il programma. Ma guarda, quando ore. Vuoi, perché io dico sempre, anche con le mie figlie, il mio sogno è di fare, come dire, non l'opinionista, ma l'addetto del suono a tutti i convocati a Radio 24. Quello, cioè, questo, hai capito? Star lì, vederti lavorare dal vivo, perché tu fai qualche cosa. Ciao, Leo, ti adoro. Saluto Pardo. Ti saluto Pardo. Tutti convocati. Due ore di tempesta, due ore di sole, due ore di battaglie, due ore senza amore. due ore per trovare l'uscita di sicurezza, due per riconquistare un tuo stato di grazia. Questa è la canzone nostra, due ore da lunedì, non è un pesce d'aprile, questo non è un pesce d'aprile. La notizia di prima del giornale radio, quella l'ultima, quella dei manifesti funebri per De Magistris, si è beccato uno che, insomma, uno degli affissori, so si dice così, era dipendente del comune di Napoli. Chissà perché una notizia come questa in Italia mi sorprende zero. Però due ore da lunedì 7 aprile, tutti convocati. Poi Giuseppe Telesforo si trasferirà su praterie molto più ampie, per fortuna nel weekend potremo ascoltarlo molto di più. Invece vi toccherà ascoltare tutti i convocati ogni giorno dalle 14 alle 16. Contento Piero da Cremona? Tentissimo. Beh, meno male, grazie. Allora, io volevo riferirmi, prima parlavate dell'Inter, di Mazzarri, eccetera. Sì. Io ho notato che corrono un po', si sono in campo come è il loro allenatore in panchina, corrono in maniera nevrotica quasi, sì. Non hanno tranquillità, giocano in tensione, mentre la filosofia dell'allenatore del Milan, Seedorf, che è stata annunciata all'inizio, per cui lui dice vabbè, d'accordo, gli schemi, la disciplina tattica, però lasciamoli pure giocare, sta dando i suoi frutti. Cosa ne pensi? Ma che penso che, insomma, 10 giorni fa Seedorf era il male assoluto, no? Era praticamente già stato esautorato, gli hanno dato il tutor, a lui sì, che era Galliani, ma con lui in ritiro, con lui giorno e notte, con lui magari anche per comunicargli in caso di sconfitta a Roma con la Lazio e poi a Firenze che era fuori, come direbbe Briatore. Adesso torna ad essere il filosofo, il guru, eccetera. Ha ragione Pardo quando dice che il calcio è materia liquida, in questo caso è liquidissima, e adesso Seedorf, dopo tre risultati in fondo, due vittorie e il pari di Roma che gli ha salvato la pelle, che dicevamo tutti è un'aspirina, è un'attacchepirina perché non risolve i problemi del Milan, eccetera, ottima partita a Firenze e buona partita nella festa di Kakà con il Chievo, guarda caso Firenze e Chievo, e in casa con il Chievo primo gol, il gol più importante in partite così, l'ha segnato il numero 45, che rimane comunque il giocatore più importante di questo Milan. Non un caso che i gol di questo periodo siano arrivati dai due giocatori di maggiore classe, cioè Balotelli e Kakà. Comunque, quanto a Mazzarri, a questa frenesia, si dice che il carattere del, magari uso un paragone un po' irriverente, il carattere del cane rispecchia quello del padrone, quindi le squadre di Mazzarri giocano sul filo della tensione, della adrenalina, non è necessariamente un difetto. Il difetto è che io sono d'accordo con quanto si diceva prima con Luca Calamai, questa Inter è regredita rispetto all'inizio, sembrava all'inizio avere un maggiore ordine, poi si è persa in maniera importante a gennaio. Poi ci sono stati risultati più favorevoli, vabbè, la cronaca la conoscete, adesso 2 punti in 3 partite sono davvero poca roba. La sensazione resta quella, e cioè che adesso, ma sensazione, sono anche le parole di Mazzarri, l'ho detto ieri, siamo nel periodo degli scrutini, vediamo chi è dell'Inter e chi no, quindi siamo ancora alle ruspe che abbattono tutto e vediamo su quali mattoni si tornerà a costruire. A proposito di, no, non voglio riallacciarmi alla notizia del GR di cui sopra, però non sono evidentemente giorni tranquillissimi per De Magistris, perché con lui, con il sindaco di Napoli, se l'è presa, come sapete, anche Aurelio De Laurentiis. Oggi alle 5 io lo guardo per 2 ore per capire se io me ne devo andare da Napoli, prendermi Rafa Benitez e tutti i giocatori, comprarmi una squadra in Inghilterra e ricominciare tutto quanto da là, mettere la primavera a giocare nel Napoli, e poi il Napoli ritornerà probabilmente in Serie C, e però ci avrete il sindaco di Napoli e giocherete con lui, probabilmente potrà fare gli 11 campioni, ci metterà Auricchio in porta, lui in attacco, non lo so. perché io mi sono molto stancato, perché con me tutto si può dire, ma io sono una persona veramente facile, non sono una persona difficile, perché sono una persona che parla, che ragiona, che cerca di capire. Però quando dall'altra parte io ho dei muti, ho dei sordi, ne devo prendere atto e dico: va bene signori, io me ne vado. Francesco da Napoli, che dobbiamo fare? Prepariamo le valigie per andare a vedere giocare Higuain e Hamsik, no, questi in Inghilterra? No, perché De Laurentiis parla facile, cioè nella cosa pubblica tu non puoi avere in regalo senza gara d'appalto allo stadio. Sai come dice lui? Va a Caserta dove ha tanti inviti, io da tifoso vado dove lui mi porta in campagna, forse anche a Parma, no? E ti fa il tuo stadio e cacci i soldi, non puoi pretendere che te lo regalino. Cacci i soldi, c'è una gara d'appalto che bisogna fare e lui deve partecipare, non può correre il rischio di perderla perché lui vuole dare due soldi. Il comune di Napoli chiede Magistris, ha molta responsabilità, ha tanti problemi, ma non si può per certo preoccupare di regalare lo stadio al primo che capita, che non è lui, ma che non vuole cacciare i soldi. Lui non ce lo fa il sindaco, che deve fare gara d'appalto. La storia che Amparino Giraudo insegna, sì, non si può fare così. Questo è tutto. Sì, non si può fare così, però il problema è che fare uno stadio in Italia, e De Laurentiis lo sa perché è nato da queste parti, lo sta imparando Toir, ci stanno provando gli americani d'accordo. Di Roma, e fare uno stadio in Italia, costruire qualcosa in Italia, non di regolare, non di abusivo, eccetera, è un problema tremendo, perché esatto, cioè anche perché io sentivo l'altra volta il suo collega Rega, sì, se non sbaglio, che diceva: sì, perché sono contro i centri commerciali, cioè un'Italia vecchia, io faccio uno stadio, faccio i centri commerciali. No, ma su questo sono d'accordo con lei, Francesco. Io ho uno in più, uno in meno, a me non cambia niente da consumatore, anzi forse avrò qualche vantaggio. Sì. Tanto quando si vuole si costruisce, quando non si vuole non si costruisce, tanto decidono sempre per i più ricchi, a me che ci sia uno più centri commerciali, cinema. Comunque Francesco, ma il discorso è questo, centri commerciali si va per dire, perché non equivochiamo, però se si fa, lei sa benissimo che in Europa tutti gli impianti moderni sono, come si dice, con una parola secondo me orrenda, polifunzionali, no? Vuol dire che hanno dentro un sacco di cose. Ma questo non mi sembra un peccato, Questo non mi sembra peccato. Carlo, posso dire un'ultima cosa, certo, su Mazzarri? Ma certo. Velocissimo. Sì. Allora, io domanda provocatoria, mi dispiace per gli amici sportivi interisti. Cosa ci si poteva aspettare da uno che 2011-2012 con i suoi titolarissimi Maggio, De Santis, Cannavaro, Campagnaro, Zuniga, Cavani, Lavezzi e Hamsik nel meglio della loro, non ha vinto niente. No, aspetta, ma se stanno dicendo, ma aspetta Francesco, però a Napoli non state facendo i paralleli tra questo Napoli terzo e quello di Mazzarri che era secondo, di qua, i punti. La verità dei tifosi che non si riporta è che De Laurentiis l'ha fatto bollire nel suo brodo, perché De Laurentiis ne aveva appena di scatole di uno, e una volta c'ha la Champions, una volta l'Europa League, e una volta la settimana, una volta i giocatori non sono titolari, una volta i giovani non vanno bene. Sta giocando, lui sta morendo del suo male perché gioca Icardi, perché gli ha detto chiaro Toir: guarda che Milito se ne va via perché non rinnova. Vabbè, ma com'è normale che sia, no? Com'è normale e che sia? Lui se non hanno 28 anni non li mette in campo. Vedi Fernandez ora inizia a giocare Benino e lui l'aveva relegato al ruolo di racchetta palle. Sì, sul fatto che storicamente non sia così, come linea guida l'allenatore che ha il pallino dei giovani o che cui piace lanciare i giovani o rischiare sui giovani, poi giratela come volete, usate il termine che volete, questo si sa, no? Ma Mazzarri lo si conosce, quindi se tu alleni una squadra che dice: ok, voglio puntare sui giovani a costo di rischiare qualcosa, probabilmente per caratteristiche non è l'allenatore giusto. Poi è anche vero che l'Inter ovviamente deve guardare al futuro, far giocare Icardi è corretto in questo momento, se vogliamo restare in prospettiva di scrutini, così come è corretto finalmente stringere la mano a Milito, alzarsi in piedi, fare una bella festa e dire: va bene, abbiamo dato, è un giocatore che ha la sua età, che guadagna anche molti soldi, che ha guadagnato negli ultimi anni molti soldi, quindi logico guardare al futuro. più che altro l'Inter ha pagato un sacco di soldi Icardi, ha pagato un sacco di soldi Belfodil e si è resa conto che io non cambio la mia idea. Icardi è un tronista che sa giocare molto bene a pallone, però insomma rimane questo a mio parere, eh. Poi ieri sera sul gol di Hernández, l'avete visto tutti, ha ciccato il pallone, è arrivato Hernández dietro, pam, e l'ha messa dentro. Insomma, bravino, magari si farà, ma adesso non parliamo di Icardi come di un campione in questo momento. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve, allora no, io innanzitutto ecco volevo parlare dell'Inter e vorrei appunto dire su Mazzarri che io, conoscendo l'Inter dell'anno scorso, che era più o meno simile a questa, capisco come Mazzarri stia facendo un mezzo miracolo, perché lui è a meno 3 dal quarto posto e l'Inter che praticamente è arrivata nona non era molto diversa da questa, quindi ecco, penso che scagliarsi contro Mazzarri sia troppo facile e anche un po' vile, ma lo stesso contro Guarin. Ma Gabriele, allora dov'è l'errore? Ora ci arrivo. Guarin pure, poraccio, nel senso, io tante volte ho fatto errori del genere giocando con gli amici e anche a livello un po' più alto, e non è che l'ho voluto fare. Ma questo è ovvio. Bisogna essere vicini al giocatore, tanto sappiamo che è un buon giocatore che non e che è, poi soprattutto ha allungato il contratto e dunque è uno di quelli su cui teoricamente si punta per il futuro ed è un patrimonio della società. Sì, esatto. Ma quindi dov'è l'errore? No, secondo me a centrocampo, se non si riesce a creare gioco contro le piccole, il problema è che ci vorrebbe qualcuno che crea gioco. Non può essere Hernández, perché sappiamo che Hernández sì, si può adattare, ma non sa, ma diciamo crea dei problemi in fase difensiva, tanto che bisogna coprire un po' di più dalle fasce quando c'è Hernández davanti alla difesa. Sì, però Hernández è stato preso per questo, Gabriele, ed è stato secondo me un'eccellente idea per la ricostruzione dell'Inter. Quindi morale, sintetizzando, la colpa è di Tuer, che non ha ancora comprato i giocatori, chissà se lo farà. Perché è appena arrivato, cioè, vediamo cosa fa quest'estate. Vediamo. Gabriele, grazie, voglio salutare Sandro da Venezia perché sta scadendo il tempo, ma da lunedì avremo tutta l'ora intera fino alle 16. Sandro? Sì, buongiorno. Io dissento da quello che è stato detto finora, nel senso che tra 4 settimane che volevo chiamarvi, quindi sì. Tempi non sospetti, e dopo sì. L'esploit di ieri sera di Guarin, volevo dire che secondo me l'errore sta nel fatto che la dirigenza a gennaio, avendo ascoltato i tifosi, non ha avallato uno scambio che per l'Inter sarebbe stato molto proficuo. Sì, ma Sandro, io però non capisco da che cosa dissente, perché io questo l'ho detto molte volte, cioè secondo me innanzitutto non ci si fa mettere i piedi in testa dai tifosi, punto primo. Punto secondo, l'Inter in quello scambio avrebbe avuto da guadagnare, considerata l'ambiente che da tempo circonda Guarin, che non è esattamente che è abbastanza ostile, questo lo sappiamo. Allora, adesso chiudiamo, da lunedì 2 ore insieme, dalle 14 alle 16, Franco Piantini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, ciao a tutti. Gente, tu sei per la radio come Zuckerberg per i social network, no? E Pardo è il tuo associato lì di Google, lì come si chiama lì.